Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. La stagione calda si avvicina e con l'arrivo del soleone parcheggi e strade ricoperte di asfalto rischiano di trasformarsi in forni all'aria aperta. Pensate che un manto bituminoso nero sotto il sole di giugno può raggiungere temperature superiori ai 60 e anche 70 gradi, contribuendo in modo sostanziale al cosiddetto effetto isola di calore, per cui la temperatura massima nel centro delle città, le grandi città soprattutto, può superare di 5-6 gradi nei casi peggiori, addirittura 10 le temperature delle campagne circostanti. Non è un caso d'altronde che molte città del sud in Italia siano edificate con materiali chiari e che le case siano dipinte di bianco, con il risultato però di creare a volte un ambiente a dir poco, diciamo così, abbacinante. Ed eccoci dunque al tema di questa sera. Parliamo infatti di manti stradali innovativi o di trattamenti per questi manti stradali più tradizionali che sono capaci di ridurre l'effetto isola di calore senza per questo rendere eccessivamente abbagliante l'ambiente. Diamo il benvenuto a Rossano Granchi, che è presidente e amministratore delegato del gruppo Granchi, che è appunto specializzato nella produzione di calcestruzzi e conglomerati bituminosi, che sta lavorando esattamente su questa tematica. Buonasera Granchi. Buonasera. Senta, allora, voi avete messo a punto una specie, diciamo così, di film anticalore. In che cosa consiste e come funziona? Partiamo da qui. Perfetto, allora noi applichiamo un trattamento superficiale su pavimentazioni in asfalto o in altre tipologie di conglomerati, un trattamento superficiale appunto, con della pietra vergine di natura calcarea che non assorbe calore, quindi di colore anche sul bianco o sul giallino, e il tutto diciamo legato da una resina con delle caratteristiche di tenacità molto elevate, molto forti. Ecco, esatto. Voi quindi mescolate questa resina con questa pietrisco, chiamiamolo così, abbastanza fine, se ho capito, esatto, bene, sì, di tipo calcareo, e che ci fate? Lo spalmate, no? Esatto, lo spalmiamo sopra una superficie già esistente, diciamo in buone condizioni naturalmente, non deteriorate, e lo spalmiamo sopra. 3 mm, pochi millimetri di spessore, giusto? Si va da 2 a 3 mm di spessore, e questo consente naturalmente di non avere problemi anche di quote per quanto riguarda chiusini e quote esistenti da rispettare. Ecco, questo è una caratteristica che agevola anche questi tipi di trattamenti. Qual è l'effetto? Quanto riuscite ad abbattere la temperatura con questi appunto 3 mm di composito a base di pietra? Allora, con questo tipo di trattamento superficiale riusciamo ad abbassare la temperatura, diciamo, tradizionale di un conglomerato bituminoso di circa 10 gradi centigradi. Quindi 10 gradi, che è una cosa piuttosto significativa. Passare dai 60 ai 50 gradi cambia completamente la percezione di chi ci sta camminando sopra. Ecco, a proposito di camminarci sopra, quante realizzazioni finora avete fatto? Fino ad oggi abbiamo fatto più che altro realizzazioni, siccome siamo in fase sperimentale, realizzazioni in laboratorio per testare, diciamo, quelle possono essere criticità alla rotabilità del traffico, e più che altro abbiamo fatto interventi su situazioni pedonali, piazze, marciapiedi e piccoli parcheggi. Ecco, tra l'altro diciamo che il sistema si può adattare, diciamo così, a dei paesaggi urbani diversi, no? Avete avuto, esatto, questa attenzione al colore? In un certo senso. Esattamente. Per quello che concerne, diciamo, quello che è il rispetto delle arredi urbani, quindi situazioni architettoniche già esistenti, per non andare con un monocromatico, riusciamo con certi tipi di calcare, a seconda della colorazione, a inserirsi in qualsiasi tessuto urbano. Ecco. Questo perché questa vostra resina che mescolate al pietrisco di per sé è trasparente, no? Per cui poi si valorizza il colore della pietra in pratica naturale, sostanzialmente. Esattamente. Questa è la caratteristica principale. Oltre a garantire anche, diciamo, una caratteristica di irruvidimento delle pavimentazioni stesse. Quindi laddove abbiamo dei conglomerati bituminosi che sono viscidi, sì, in modo quando piove, con questo tipo di trattamento riusciamo a garantire anche una certa aderenza. Cioè diventa proprio appunto più ruvido, più, esatto, più ruvida la superficie. Se invece di avere una situazione in cui c'è un manto stradale esistente, si parte da zero o bisogna rifare completamente il manto stradale, la strategia, volendo tenere sotto controllo questo fenomeno dell'isola di calore, è sempre la stessa? Cioè si fa un manto normale e si spalma questo strato, o si può cambiare strategia completamente? No, è una domanda molto pertinente, perché possiamo tranquillamente nelle nuove realizzazioni cambiare la tipologia, sostituire il pacchetto tradizionale in conglomerato bituminoso con un pacchetto che è un conglomerato cementizio attivato con dei polimeri altamente drenante. Ecco, ma le prestazioni rispetto a questo tema delle isole di calore sono diverse? Sono migliori? Sono peggiori? No, sono migliori, perché chiaramente una base di conglomerato, di base cementizia pozzolanica, assorbe minimo il 50% di quello che è una pavimentazione tradizionale in conglomerato bituminoso. In conglomerato bituminoso, che ricordiamo usa materiale, diciamo, della pietra di tipo di solito basaltico, che invece ha una grande capacità, solo è scura, ma ha una grande anche capacità di accumulare calore al proprio interno, no? Va bene, grazie allora, grazie Rossano Granchi e bocca al lupo. Di niente, sempre a disposizione. Ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a domani. Buona serata a tutti.